Ciao a tutti, sono Ottavia e sono una aspirante scrittrice. Oggi voglio portarvi il primo capitolo di Vicini di casa di Thomas Berger. Sarebbe stato carino da parte nostra, disse Urquiza a se stesso, come pure alla moglie che stava all'altro lato del tavolino da caffè, invitarli a bere qualcosa. Possiamo sempre farlo domani, disse Enid. Niente è davvero perduto. Ma è oggi che si sono trasferiti. Keyes sorseggiò il suo vino trasparente con sguardo pensoso. Trovo che se bisogna fare una cosa, tanto vale farla quando va fatta, così uno non se la dimentica. Comunque non penso sia una tragedia, potremmo addirittura non dargli nessun benvenuto formale. In fin dei conti non è mica un obbligo morale. Come dare da mangiare a uno che sta morendo di fame? Esatto, disse Keyes. Si alzò e si diresse verso la cucina. Nell'attraversare la sala da pranzo con la tappezzeria a tenui disegni dorati, si piegò leggermente per sbirciare, da sotto la lunga mantovana e sopra la serra a parete, nel giardino della casa accanto. Malgrado quello che aveva creduto di vedere, tirò dritto. Ricontrollò dalla cucina. Era un grosso cane bianco, un levriero irlandese per la precisione, non un essere umano nudo carponi. Se Keyes avesse accettato alla lettera la testimonianza dei propri occhi, la sua vita sarebbe stata tutt'altra, una catastrofe forse, perché andava soggetto a bizzarre illusioni ottiche che, pur non abituali, si manifestavano in lui non di rado. 5 o 6 volte l'anno credeva di assistere a fenomeni, quali George Washington, che urinava contro la ruota di un'auto parcheggiata, in realtà un'anziana signora china sul bastone, una suora che dava in escandescenza un incrocio, vigile che dirigeva il traffico, un ratto di proporzioni gigantesche. Pallone da football abbandonato. O un pervertito che con impudenza gli mandava un bacio dal finestrino posteriore di un autobus, viso di operaio che dormiva adagiato sulla mano. Questa strana malattia, o dono che dir si voglia, era affiorata in Keyes con l'adolescenza. Mai però l'aveva tratto in inganno. L'unico inconveniente che gli aveva causato era una singolare inclinazione allo scetticismo. Talora, in effetti, la realtà assumeva sembianze assai bizzarre. C'erano davvero persone che tenevano cuccioli di pitone che poi scappavano e finivano per essere ritrovati, beatamente sonnecchianti, in un drive-in a 3 chilometri da casa. Se Keyes si imbatteva in un fenomeno simile, era convinto che fosse la solita illusione ottica. Non aveva creduto ai suoi occhi quando aveva visto un uomo grasso, nudo dalla testa ai piedi, salire la scalinata di un edificio pubblico. Ma quell'uomo era reale. E l'indomani mattina, sul giornale, apparve una foto che lo ritraeva di spalle, era sfuggito alla polizia, e le motivazioni del suo gesto rimanevano oscure. Keyes ammetteva a se stesso che, in rarissime circostanze, qualcuna delle sue bislacche visioni potesse essere in parte o addirittura del tutto autentica. Ma siccome non disponeva degli opportuni termini di confronto, doveva, per autoconservarsi, rigettare costantemente qualsiasi testimonianza oculare. Insomma, si collocava agli antipodi del genere umano in relazione a una fondamentale e incontestabile verità: vedere e credere. Adesso aprì il frigorifero e trovò la bottiglia di vino, che giaceva in posizione orizzontale. Come temuto, perdeva dal tappo di sughero. E sul coperchio del sottostante scomparto per la frutta e la verdura si era formata una piccola pozzanghera. Mentre storceva il naso, udì un colpetto alla porta sul retro. Lieto della distrazione, si raddrizzò e fece per andare ad aprire. Lungo il tragitto, si aspettava di scorgere, dietro il grande pannello trasparente della porta a vetri, la persona che aveva bussato, tanto più perché le tende erano state staccate e messe a lavare. Ma non vide nessuno finché non raggiunse e aprì la porta. E solo allora notò il levriero irlandese, che si aggirava un paio di metri di distanza. Ipotizzò che fosse stato l'animale a battere il colpetto. Di altri candidati, in ogni caso, non ce n'era nemmeno l'ombra. Portò la bottiglia di vino in salotto. «Mi sa che hanno un cane», disse a Enid. «Potrebbe essere un problema», rispose la moglie, appoggiando giudiziosamente il calice sul tavolino da caffè. Da diversi anni Keyes osservava la moglie solo in funzione di quello che faceva. In altre parole, vedeva l'attore solo tramite l'azione. Da ferma gli era invisibile. «Beh, speriamo di no», disse lui, muovendo di sbieco il mento e dando di gomito a un fantomatico compagno. Enid si alzò. Direi che Chennai non sarebbe fuori luogo. Nelle attuali circostanze, disse Keyes, completando un vecchio adagio familiare le cui origini hanno avvolto nel mistero un film o uno spettacolo teatrale di 20 anni prima. Enid, una donna alta già di suo, sembrava molto più imponente del solito, ma nell'uscire dalla stanza riprese le sue dimensioni abituali. Keyes si accorse che il divano, dove adesso sedeva, era di poco più basso della poltrona che di norma usava quell'ora del giorno. Non solo vedeva la realtà da un'angolazione meno propizia, ma lo spessore del suo addome subiva anche la spiacevole pressione esercitata dalla fibbia della cintura. Non essendoci nessun altro nel salotto, non aveva ragione di reprimere una certa quale tendenza alla stravaganza e, facendo un'orrenda smorfia, si mise di scatto in posizione eretta. Mentre si incamminava verso l'usuale poltrona, sulla quale, in contrasto con l'imbottitura spessa, si sentiva più snello, suonò il sordo gong del campanello. Keyes era ormai in età abbastanza avanzata, 49 anni per la cronaca, da considerare di cattivo auspicio qualsiasi visita rigiungesse senza congruo preavviso, ed era particolarmente sospettoso verso chiunque si presentasse nella fascia oraria in cui la gente come lui era solita cenare. Si avvicinò con apprensione alla porta, la dischiuse parzialmente e rivelò agli occhi del visitatore una prospettiva diagonale dell'ingresso della casa, nonché i quattro quinti di sé, tenendo l'avambraccio e il polpaccio nascosti e pronti se necessario a far leva. Per un brevissimo istante, rivolto com'era verso la testa della persona, non fu in grado di identificarne il sesso, perché vide un turbante e sotto un viso che, quantunque non indiano, mostrava una carnagione olivastra. La pelle era priva di trucco e impeccabile, mentre i lineamenti non erano così delicati da esigere l'appellativo di femminili.